Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 6 maggio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere e bentornati a Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Buongiorno a te Antonella, che sei sempre con me alla conduzione di questo programma. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti, bentrovati. Allora, oggi vi racconto una notizia dall'Osservatore Romano, si intitola Per crescere insieme, a firma di Marina Piccone. Perché quest'anno, a distanza di 10 anni dalla promulgazione della legge 62-2011, si festeggia appunto questa data molto importante per il lancio, diciamo, in Italia delle case protette per detenuti madre. Però in Italia ce ne sono soltanto due, una a Roma e una a Milano. Quindi, sebbene siano 10 anni che esiste questa legge, diciamo che dei grandi progressi in maniera strutturale non ne sono stati fatti. Però vi racconto quelle che ci sono, perlomeno. A Roma si chiama la Casa di Leda, ed è una villa bella, elegante, con un grande giardino intorno, pini altissimi, alberi d'ulivo, e si tratta di una casa famiglia protetta per donne che devono scontare una pena e che hanno bambini piccoli da accudire. E quindi si chiama appunto la Casa di Leda in omaggio a Leda Colombini, che fu veramente una donna straordinaria, bracciante, partigiana, deputata della Repubblica. Si è spesa veramente per i più deboli e si è spesa, tra l'altro, proprio lei fu l'ispiratrice della legge 62-2011, vi dicevo, che ha istituito strutture esterne al carcere di tipo familiare, comunitario, destinate sia all'espiazione di misure cautelari che di misure alternative. E secondo, infatti, i dati del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, al 31 ottobre 2020 le madri detenute in carcere o negli ICAM, che sarebbero gli istituti di custodia attenuata, erano 30, con ben 33 bambini. Mamma mia. Senti, come hanno accettato i residenti romani questa struttura? Ma in realtà non molto bene all'inizio, perché intanto la Casa di Leda è una struttura confiscata alla mafia e si trova nel quartiere Eur, un quartiere centralissimo, esclusivo della capitale, e ha avuto appunto un inizio un po' travagliato, tant'è vero che i residenti del quartiere non volevano, tra virgolette, quelle delinquenti qui, proprio non le volevano, e così quando si è sparsa la voce dell'apertura di questa casa hanno protestato in tutte le forme possibili, lettere ai giornali, interventi nelle commissioni consiliari del comune, nelle assemblee pubbliche, nel municipio, persino un ricorso al TAR. Quindi una battaglia durata 6 mesi, ma alla fine è stata fatta una convenzione con il Ministero della Giustizia datata 2015 e la casa è partita, coordinata da una cooperativa Cecilia Inati con le associazioni Pronto Intervento Disagio e Ain Karim, e questa casa ha 6 stanze con bagno in cui abitano 6 donne e 10 bambini. Senti, e invece a Milano che cosa fanno e che tipo di reazione c'è? Allora, a Milano abbiamo invece un'altra casa protetta gestita dall'associazione Ciao ed è situata all'interno della parrocchia Santi Quattro Evangelisti in zona Ripamonti, a sud della città. Anche qui è stata fatta una convenzione col provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il comune di Milano ed è del 2016 questa convenzione, ma già la casa era operativa dal 2010. Attualmente ci sono 5 donne, 5 bambini dai 4 ai 10 anni, e sono per lo più donne straniere, vengono dal Perù, Santo Domingo, Marocco, Romania, Filippine, Lituania, Nigeria. Quindi una buona fetta di mondo, diciamo, è presente in questa struttura. Il personale è composto da specialisti come criminologi, psicoterapeuti, psicologi, oltre che ovviamente da educatori professionali. Ed è stata, diciamo, accolta meglio che a Roma, perché in qualche modo appunto era già operativa dal 2010, quindi significa che un percorso di inserimento era stato decisamente già fatto. E va avanti grazie all'impegno dell'associazione che la gestisce, sempre ovviamente alla ricerca di fondi, però questa cosa, diciamo, grazie anche all'ex ministro della giustizia Bonafede e alla ministra Cartabia, dovrebbe essere superabile grazie all'ultima legge di bilancio che ha istituito un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare proprio alle case famiglia protette. E ce lo auguriamo vivamente. Senti, che cosa ci proponi oggi? Lancio Maybe di Janis Joplin, un brano del 1979. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, dopo aver ascoltato sempre la nostra Janis Joplin, questa volta con Maybe. E Antonella, con te oggi parliamo di calcio, ma calcio africano. Sì, sì, infatti oggi parliamo di calcio africano e di quello che chiamano anche la fuga dei muscoli. Allora, in Africa, insieme alla cultura e ai sistemi coloniali europei, il calcio divenne presto uno sport molto popolare e così apprezzato che anche dopo l'indipendenza alcune nazionali africane entrarono a far parte della FIFA. La FIFA è la Federazione Internazionale delle Associazioni. Per esempio la Nigeria vi entrò nel 1960 e l'Algeria nel 64. E qualche anno prima, nel 1957, in un clima di decolonizzazione, nacque anche la prima organizzazione africana che, al pari della UEFA, in Europa univa tutte le associazioni calcistiche africane, ovviamente. Questa è la CAF, Confederation of Africa Football. L'ingresso nella FIFA di club africani contribuì anche alla democratizzazione dello sport, questo è una cosa importante, perché prima era praticamente appannaggio degli europei, dei sudamericani soprattutto, e trasformandolo quindi in uno strumento anche in grado di dare un po' più di visibilità e di voce alle istanze africane. Infatti il caso emblematico che voglio ricordare fu quello appunto, fu il contributo del CAF al boicottaggio sportivo del Sudafrico durante l'apartheid, siamo nel 1963. Ma Antonella, volevo chiederti una domanda, ci sono molti giocatori africani, che bravissimi tra l'altro, che però lasciano il loro paese per cercare fortuna, vero? Eh sì, infatti si parla proprio dell'emigrazione dei calciatori africani, che era già iniziata in epoca coloniale e poi dopo si è ridotta con la nascita di cui vi parlavo, appunto delle nazionali africane, ma poi riprese negli anni Ottanta grazie a facilitazioni per poter acquistare calciatori stranieri e soprattutto calciatori africani. Infatti, secondo un osservatorio che è il CIES, International Center for Sport Studies, nel 2020 c'è stato un esodo, mettiamola così, e i paesi più coinvolti sono la Nigeria, il Ghana, il Senegal e la Costa d'Avorio, che riempiono le file delle squadre europee e internazionali con circa 1000 giocatori, anche se in testa resta il Brasile, che da solo contribuisce con circa 1500 calciatori. Tra l'altro sono notizie attualissime, perché si sta parlando anche di Superlega negli ultimi giorni, di questo caso scoppiato sempre riguardo al calcio. Ma a proposito, parlavi all'inizio di fuga dei muscoli, ma io credevo che esistesse solo la fuga dei cervelli. No, invece c'è anche la fuga dei muscoli per un motivo molto semplice in realtà, perché le società europee e internazionali hanno ben capito che c'è un serbatoio di giovani calciatori africani che anche fisicamente sono molto ben preparati e quindi insomma sono molto appetibili, oltre che a basso costo. E quindi da qui appunto c'è la cosiddetta fuga dei muscoli. Voglio però ricordare di un giocatore che è diventato famosissimo, Sadio Mané, che è il calciatore africano più pagato di tutti i tempi, attaccante fenomenale del Liverpool, ma anche una persona molto impegnata nel sociale. Tant'è che buona parte del suo ricavato, e non saranno certo pochi spiccioli, vengono donati alle popolazioni bisognose del continente africano e ha anche pagato la costruzione di un ospedale. Oltre ad essere un devoto musulmano, che pulisce i bagni della sua moschea periodicamente. Che bella storia. E allora concludiamo con un brano a metà mattina. Sì, il brano è stato il brano dei mondiali di calcio FIFA 2010 che si erano svolti al tempo in Sudafrica ed è il brano di Shakira, famosissimo Waka Waka. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, sempre giovedì siamo con Marcello Mattè, cappellano del carcere della Dozza, buongiorno. Buongiorno. Marcello, stiamo continuando a leggere questo capitolo intensissimo del Vangelo di Giovanni. La scorsa settimana ci siamo lasciati con la figura del tralcio e la vite e questa settimana continuiamo al capitolo 15, versetti 9-17 di questo comandamento dell'amore sostanzialmente. E dice il Vangelo, Gesù dice, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E allora io ti chiedo, ma non è un comandamento impossibile per noi da seguire? Detta così brutalmente sembrerebbe un comando impossibile. Per fortuna a Giovanni piacciono le letture multiple, ci piacciono i livelli multipli di significato dei verbi che usa. E in questa espressione da una parte si può leggere quello che Gesù dice altrove, cioè Gesù in effetti ai suoi discepoli dice farete cose ancora più grandi di quelle che ho fatto io. Quindi Gesù ha molta stima di noi, si aspetta molto da noi perché sa che è lui che ci rende capaci di questo amore. Dall'altra parte, quel come significa che dobbiamo amarlo nella maniera in cui lui ci ha amati, dobbiamo amarci gli uni gli altri nella maniera in cui lui ci ha amati. E la maniera ce l'ha detta qualche capitolo prima, in quel stesso episodio, quella stessa sera durante l'ultima cena, quando Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Per cui amarsi gli uni gli altri come Gesù ci ha amati significa diventare capaci di servirci gli uni gli altri, diventare capaci di mettere la nostra vita a servizio degli altri. Ma c'è un terzo significato che credo renda ancora più accessibile questo comandamento. Cioè Gesù dice: amatevi gli uni gli altri siccome io ho amato voi, poiché io ho amato voi. E questo rende il comandamento accettabile. Cioè ci è possibile amarci gli uni gli altri perché per primi siamo stati amati noi e siamo amati noi. Allora, il fatto di saperci al tranquillo, al sicuro della certezza di essere amati da Lui, ci rende possibile dare la nostra vita anche per gli altri, fare della nostra vita un servizio per gli altri, donarci con lo stesso amore, perché non abbiamo nulla da perdere, perché tutto abbiamo già avuto grazie all'amore che Lui ha per noi. Ecco, dicevi poc'anzi che Gesù ha molta stima di noi, sa che possiamo seguirlo e fare cose grandi. E più avanti, infatti, nei versetti dice: non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici. E allora ti chiedo quale significato ha la parola amico sulla bocca di Gesù. In effetti, nell'Evangelista Giovanni, la parola amico ha un significato molto carico. Tant'è che l'Evangelista Giovanni, che è quello che poi scrive del comandamento dell'amore, che ripete questo comandamento, che diventa per lui la sintesi dell'insegnamento di Gesù, usa questo termine amico per indicare la massima espressione dell'amore. La massima espressione dell'amore non è neanche l'agape, cioè quell'amore gratuito che Gesù ci ha insegnato e che ci ha testimoniato con la sua vita. Ma l'amicizia è qualcosa ancora di più, perché l'amicizia allude a quell'amore che diventa capace di dare la vita per l'amico. Quindi è il massimo, la massima espressione dell'amore, la stessa che ha avuto Gesù verso di noi. Per questo non ci chiama più servi, non ci chiama obbedienti a un comandamento. Non si può comandare di amare, però si può suscitare l'amore dentro di noi, è quello che ha fatto Gesù, in maniera da renderci capaci di diventare dono gli uni per gli altri, capaci di donare la vita gli uni per gli altri. Questo dare la vita è la massima espressione dell'amore ed è appunto quella che caratterizza l'amicizia. L'amico è colui che è disposto a dare la vita per l'amico. E sulla base di questo esempio che ci dà Gesù nell'amore per l'appunto l'uno per l'altro, che brano ti viene in mente da lanciare? Io volevo suggerirvi un brano di Genesis, Follow You, Follow Me, che indica questa reciprocità: seguimi che io ti seguirò. Ascoltiamolo. I can see Rieccoci, bentornati sulle note dei Genesis, Follow You, Follow Me. Ben trovato Marcello Mattè, cappellano del carcere della Dozza. Stiamo sempre leggendo il capitolo di Giovanni, capitolo quindicesimo, dove dopo un po', verso la fine, Gesù afferma: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi sembra un'affermazione molto importante questa. Lo è per me in modo particolare. Ci sono molto affezionato a questa espressione di Gesù, perché credo che ci dia il criterio di interpretazione di tutto il suo annuncio, di tutto il suo Vangelo. Gesù ci sta dicendo: qualunque cosa vi dicono che non vi porta vita, non viene da me. Tutto quello che Gesù ci ha detto, ce l'ha detto e ce lo dice perché abbiamo la vita e l'abbiamo in pienezza. Non dice quindi, non parla per mortificare, non dà comandamenti per umiliare, non ha pretese su di noi che mortifichino la nostra umanità, che rendano complicata la nostra vita, ma tutto quello che lui ci ha detto, tutto quello che lui ci dice, lo ha detto e lo dice perché noi abbiamo la vita e l'abbiamo in pienezza. Dubitiamo dunque di tutte quelle affermazioni che si vestono di religione, che si vestono di Vangelo, ma che poi umiliano l'uomo. Tutto ciò che umilia l'uomo non viene dal Vangelo, non viene da Gesù. Possiamo ritenerlo come una cartina al tornasole per l'interpretazione del Vangelo. Quando leggiamo il Vangelo, quando cerchiamo di capire la volontà di Dio, dobbiamo sempre pensare che la volontà di Dio su di noi è questa, che noi abbiamo la vita e che ce l'abbiamo in pienezza. Grazie Marcello, sono delle affermazioni importantissime, come giustamente dici. E la prossima settimana diamo un breve preannuncio, non siamo più con il Vangelo di Giovanni, ma il Vangelo di Marco, e commenteremo l'Ascensione, quindi una grande festa dopo appunto la Pasqua. Che brano lanciamo per terminare la nostra chiacchierata? Ma c'era un altro brano che a me piace molto, che è di John Lennon, nella colonna sonora del film Stand By Me, che racconta di questa amicizia e di questa modalità dell'amico che sa stare sempre al fianco qualunque cosa, qualunque sentiero si attraversi. Should tumble high. Abbiamo appena ascoltato Marcello Mastel, cappellano della Casa Circondariale d'Asta di Bologna, e ci ridiamo appuntamento tra poco con le rubriche. Oggi parliamo di, abbiamo i cantieri meticci, il teatro dei cantieri meticci all'interno del carcere sempre bolognese, che potete rivedere anche la puntata al canale 636 di Teletricolore alle ore 17. Scriveteci, redazione liberi dentro, @gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna. Grazie ad Antonella Cartese, in redazione con me, e a Pasquale Pitagnello. Buona giornata a tutti e tutte, e ci rivediamo domani, sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.